14. Come, cosa ci faccio? Ti ho sentito parlare e sono entrato. Perché non posso venire? Se non vuoi me ne vado. No, no, carissimo. Ah, ecco, carissimo. Questo è il Galaxy. Ma comunque se sa prendere la popolazione. Vuol dire che sta girando il tempo. Gappa. Bella radio, è il Galaxy. Bella, microfono shooter. Bella, molto bello, molto bien. Muy bien. Gappa, ti avviso proprio di Russia, cazzo, della Lituania, di Lugacino, tre bongari. Ah, ma provocato in banda laterale, in chi dà sul canale di chiamata internazionale? 12? 12 su, dai, che vado con l'altro, però non con questo, che con quell'altro mi viene meglio. Ah, invece, DE? Ehi, canale 12, USB. Però Eia Gappa, che banda sei? Io sono in D, adesso vado in E. No, adesso sono in E. Thank you. Papa che ti ascolto Gianni, sembri un paperetto, già ti ascolto. Ha detto l'italiano rosso. Sotto l'acqua, dentro, dentro Isole Canarie, se tu siate nel nord Sardegna che fa chiamata, frico, frico. Si chiude, vamos a ver Isole Canarie, se vai scusando nord Sardegna Italia chiamando, estrazione 165 Mike November Oscar, over over. Attento 34 Divisione Canarie, vamo attraverso Vasco Ciano, Nord Sardegna, Italia chiamando, brico, brico. Vengono, fanno la misurazione, devono fare complessivo per no 500 euro speso. Se poi c'è il difetto lo mettono in conto a quello che ha creato il problema. Beh, penso che sia così, si pagheranno le spese. Ma a me mi ha detto, io sono parlato da poco, non facciamo nulla, quando dice sei di quattro gatti, noi andiamo a controllare le cose grosse, a meno che non ci sia qualche problema di qualcuno che sta disturbando i canali telefonici, le reti RAI e cose del genere, perché dice, solo se c'è la denuncia interveniamo noi, non se ne hanno tutti proprio, ci sono cose più importanti, dice, di queste cose, siete quattro gatti, dice, ma 10-15 anni fa che c'era un bel di cibi, adesso dice, sono sei di quattro gatti. Si utilizza male il baracchino, prevalentemente dei camionisti lo utilizzano durante le ore di lavoro, poi di notte, se tu attendi sono quasi tutti vuoti i canali, tranne uno o due massimo, quando c'è gente, se no, tipo adesso, magari non c'è più nessuno. Sì, io lo so, gli ho capizzato. Ma ascolta, trasmettitori FM di B, della DB non ne hai tu, che non ti servono. Non ho capito, punto ripetitore. No, trasmettitore FM della DB elettronica. La scheda non ce l'hai. Scheda, perché ce l'ho qua, la scheda c'è il PLL slibato. E adesso funziona tutto, il finale, 40 watt, tira fuori. Però mi serve un coso. Capito? No, DB no, ce l'avevo il K100 dell'amplificatore, l'altro, io c'ho ancora il trasmettitore mio, il finale l'ho dato via, della ELT, quello che c'è, nuovo, ancora dentro la busta, diciamo, dentro la busta, da tutto in cellofanata, nuovo, tira, insomma, una quindicina di watt il pilota, che poi l'avevo abbinato al K100 della DB, c'ho l'antenna della DB, nuova, il dipolo mi è rimasto, c'avevo la collineare, però, invece l'ho tutta, nel farato rubato, c'avevo 13 metri di palo, amo la continuità. È caduta intera, era sempre ferma, alla fine c'erano tutti gli accoppiatori, tanto mi sarebbero serviti adesso, perché c'erano già tutti quelli ermetici chiusi per fare lavori sull'antenne e stagione un po' tutto, perché me ne sono pentito amaramente. Trasmettitori non ho più niente, ho qualche scheda, però non è DB, altre cose, ma c'è forse da recuperare qualche componente, ma su internet ho visto degli apparati a prezzi da regalo, cioè degli apparati 40-50 euro, magari c'era qualcuno da sistemare, qualcuno con l'involucro un po' rovinato, ma c'erano apparati che costavano una barca di soldi. Avevo me, forse ce l'ho ancora, se non ti ragiono a fare dove l'encoda per trasmettere la telefonia. Ah, vabbè, quello già non mi serve, più che altro è la scheda per risistemarla, adesso per si scattava l'integrato, uguale, nel PRL vediamo se riesco a sistemarla questo qua. Lo voglio usare ogni tanto, non sempre, ma giusto 10 minuti 4 ore, no? Su qualche frequenza libera, così, dato che ce l'ho. Io c'avevo l'idea, mi ha detto la provo, tanto attacco la multimanda, quella lì fa tutto quanto, senza bisogno di antenne, di mettere antenne particolari, tanto arriva fino a 1003 in trasmissione con l'antenna micidiale, provo sempre a farla, però non so se faccio il tempo. Cacchio, te l'ho detto, mi parlando di attrezzature radio, tu radio te la ricordi? Sì, ce la ricordo. Cioè, sono andato in una campagna qualche anno fa per vedere un topolino, 4-5 anni fa, cioè c'è un topolino da restaurare, da finire restaurare, ha detto mi vieni qua, ti prendi quello che ti serve, vado di lì, cacchio, trovo in questa campagna, c'era tutti lampade in terra, io ho detto, c'erano gli RVR loro, di 400 watt dell'RVR a valvole di amplificatore, qui c'erano il pilota, l'eccitato, tutto quanto era un rack, bellissimo, tutto una lampada in terra, e poi ti l'ho trovato buttato, cacchio, una cosa di un bel dinario di valore, lampado. Perché non te ne pensi? No, non è che mi è interessato più di tanto, dice, li ha trovati vicino a un cassonetto della Mondetta, che deve essere borghese, quei biglietti se ne erano fatti. Ma un peccato, mi billi, anche se mai mi dici, sono parte di finali che non ci credo. C'erano tutte le valvole, tutti gli alimentatori. Io di un alimentatore ne avevo trovato uno, di un amplificatore da 1000 watt. Tu devi avere ogni bestia di alimentatore, ogni contenitore. A Monte Oro l'avevo trovato, l'avevo messo da parte, deve essere, l'avevo sostituito in una stazione radio. Ma una bestia, ma avevo recuperato tutti i componenti, c'erano degli alimentatori allucinanti, ma grosso, mi dammi le vatte. Figurati, c'era un amico mio, c'era un sacco di quelle apparecchiature buttate via Santa Maria, figurati, c'era anche trasmettitori TV, antenne TV per trasmettere, di tutto va. Non da nulla, non da nulla. Dice, questa roba ci costa quei soldi, la vendo su di te, quella roba che tu ti apri, stanno nel taglio, tu cosa devi fare? Mi ha mandato un lineale per trasferimenti di un HF, che prima ci va passando, gli ho detto, cosa me ne faccio? Ho detto, un padre sopra grande, ho detto, cosa me ne faccio? 50 batti di finale c'era. E ha già stato detto, ho detto, grazie, ho detto, mi hai fatto un letto, chiedi tutto. Già lo so, ma tu a chi ne lo conosci? Ti ho detto più quello che c'era tutta quella roba lì a Santa Maria Lampada. Quando vai da lui, la Santa Maria è piena di roba sua, di tutto, di tutto, vero? Cose per misurare, frequenze per di quelli antichi, di quelli che c'hanno con le valvoline, a potere all'Ed c'hanno con le valvoline rosse, diventano come le accendi, esce il numero, ma quello. Allora, su lui c'aveva l'ambulatorio in via Civitavecchia, ma un finaggio era con l'ambulatorio, ma c'aveva attrezzatura di valore pure. Perché cosa? Ti ricordi tu quello che c'era in un mercato che si chiama Adriano? Sì, mi ero ricordo. No, erano calotte solo, c'era l'organizzatore di Spettro, uno dei pochi che c'erano nella zona di Sassari, per non dire l'unico, quando all'epoca facevano le tarature degli apparati, c'era questo cazzo di bestia di non so quanti milioni costava con l'organizzatore di Spettro. Io ce ne sono già fuori rispetto. Mi ha un paio, due o tre Mario, lampade di là, rispetto. L'uomo che lo usano da parecchio tempo, perché quando vai a accendere non devi stare facendo le appena per i CDC. Già lo so, lui era uno dei pochi, poi aveva preso un'azienda, non mi sembra si chiama Seleno, su un nome del genere, la o tecnocomunicazione, adesso me ne ammetto, che costruiva amplificatori e trasmettitori FM, questo che stai dicendo tu. Ma era abbastanza conosciuto anche in Italia, io ho visto, c'era ancora le riviste Monitor, Mille Canali, non so se le conosci, c'era la pubblicità sua, un'impresa abbastanza grossa, poi ha mullato tutto e fa lì dubbo. E la Cosmos ha tutto quello che stai dicendo tu, Hai detto bene, Cosmo Telecomunicazione, adesso stavo confondendo io. Cosmos ha bella telecomunicazione, già lo so. Io metti gli amplificatori costruiti da lui per TV, gli metti. C'è per la pappa da Santa Maria, cioè sono milioni di roba e adesso vai a prendere, non ti danno manco la metà di chi si rimuova. Sì, già lo so, purtroppo. E devi venire a trovare qualcuno tipo, per dire, quella Radio Prisma, te la ricordi, quella che c'era giù a Sant'Anna. Non me la ricordo più. Umbre Italia sono chiuse, ma un bel. C'è chi si è venduto la frequenza, chi si è venduto i cosi, boh, quasi tutte sparite sono. Oh, se te la ricordi, giù lo so dove alle Conce, via Sant'Anna, Radio Prisma, c'è l'antenna ancora sopra di Polo, l'hai visto? Sì, già ho capito, di fronte a Polisoccorso, sì. Quello lì c'aveva a livello di alta frequenza non era un granché, però già no, loro erano 101,7, poi stupidi, non si erano neanche venduta la frequenza, sennò ti facevi anche qualche soldino. E c'è ancora l'antenna, quella è un'ottima antenna, anche se è un dipolo singolo, quella lì è di quelle in oro, bagnate in oro, placcate in oro, infatti la vedi sempre efficiente e lucida. E che era una condizione di trasmissione un po' balorda, però non ci avevano pare 200 watt, 250 watt, solo non superavano più i 100 perché li subavano mezzo mondo, e c'avevano un bel mix, proprio bello, erano i pochi nuovi, comprati nuovi della Munter, mi sembra che era il mix, un bellissimo mix, poi c'era un po' di rosso su virale ancora, era di Cassano quella radio, te lo ricordi? Sì, mi ricordo. Comunque i puri li ho visti a Catero, e c'era una specie di campana sotto. Ce li ha Mario, ce li ha a Santa Maria, ne ha 7-8 di quelli puri. No, ma quelli sono fatti bene come costruzione perché non si ossidano, sono sempre puliti, lucidi. E veniva un periodo ce l'aveva anche la GBC, la CT elettronica erano. No, ma Mario se li costruiva lui adesso. Faceva di pure lui, poi li bagnava i lavori e li faceva lui. Ne ha 7-8 mesi, diceva Santa Maria, no? Ma un confino dei bugi ne c'è. Dorati, sembrano di quei leti notturni antichi, sembrano. Poi non so se l'hai conosciuto, a me mi aveva prestato l'apparato, quello che è, come si chiama, dalla giostra, come cacchio si chiama, di Matterland, nell'altro socio, che c'era la radio a Porto Torres, che io gli ripetevo per un periodo del segnale, ma aveva dato il suo trasmettitore, il suo amplificatore. Lui lo stesso aveva un po' di attrezzatura, però era un tipo lucido, non molto affidabile. Sì, la di Matterland mi ha detto dove. C'era un furgone. C'era, quando c'era la radio Matterland, c'era un sistema di antenne radianti a pannelli. Qua in Sardegna, vabbè, Sardegna adesso non lo so, parliamo a Sardegna, l'unica stazione radio che c'ha quel sistema di a pannelli è la RAI, perché tutti gli altri sono di puli normali. Quelli RAI visti di radio, forse molti di loro dalla RAI, è l'unica stazione radio che abbiamo qua in zona che usa i pannelli in FM, c'hanno una resa allucinante, solo li deve accoppiare, sono pesanti, devo... e lui ce l'aveva, ne aveva uno di quei pannelli, lo tenevano dentro uno di quei cazzo di rulotto, cosa stavano, quel campo. Sì, io non ricordo, smettevano le zampe, trasmettevano, poi c'avevano, non so, cambiavano zona perché c'avevano il furgone appresso dell'escoposto. Sì, già lo so. E chi il ricordo mi ha lavorato a cosa? Ecco di tu, Radio OS Sassari a Canica, al Prato Comunale, che ci ha lavorato Giuseppe di lì come speaker. Giuseppe chi? Giuseppe il tuo nuovo che c'è, come si chiama? Tornato, questo che sta tornando. Ah, non sapevo che si era. Che lavorava in radio, la verità. Scusa, no, ripeti, non mi sono distratto un attimo, ma ha detto una cosa alla bambina, cosa hai fatto? Che lavorava in radio lui, la verità. Ho avuto un discorso l'altro giorno di radio, stavamo parlando e lui dice, non vi ricordate, io lavoravo a Radio West Sassari. Aspetta, veramente che sono mancanti, Gianmario, non te lo ricordi tu? Gianmario di G. Ehi, che domenica ha preso, mamma mia, non tocchiamo quel tasto, perché comunque c'è da dire. Era tutto scemo, tutto suonato, eccetera, eccetera, però la gente l'ascoltava proprio per perché era guasto, faceva quel programma delle dediche. E lei diceva, ma è da Ghisumacco, tipo quando c'era una radio ad Alghero, mi era Alghero, a Sussu, e c'era Celentano, non so se l'aveva sentito, tutta la gente l'ascoltava proprio perché era un bel grezzo, un bel ricoso, non perché era bella la trasmissione, perché c'era il programma in diretta delle dediche, e lui era Ghisumacco, Gianmario di Gigli. Sì, Gianmario me lo ricordo. Lo ricordo... Poi quell'altro di produttore che ci è finito a SNTV a fare i programmi in sardo, quello era, faceva ridere, faceva. No, ma io l'ascolto, guarda, di radio io di Sassari posso dire vita e miracolo perché ero grandissimo appassionato, adesso ormai non esistono più, a parte Radio Vera è l'unica che è rimasta, poi Avato l'ha data a Sassari Radio che si chiama Mondo Radio, poi com'era, 90.7 Avato, però è sempre la stessa combricola. Ma quando era Radio Zero, ultimamente che era Bacchisio, che poi è stato anche a Tele Radio Giovane, che era Goso, guarda, era una cosa bellissima. Adesso ci vogliono soldi per la tornata, ma un bel dinamico, poi compatti la frequenza, tutto questo casino che c'è, se non cambiano le leggi adesso, chi è più forte rimane, capito? Ci è rimasto tanto ancora, che parlava Malacchino, che è Fisio e quell'altro esaurito del fratello. No, perché tra l'altro il Malacchino, che era la radio. C'era ancora la radio, Radio Antena 2000 di Zanta. Non lo conosco, è Fisio, no, non l'avevo capito, avevo capito Silvio, Leonardo, sì. No, perché loro ci birano? Eia, ci birano tutti e due. Entrava un parecchio tempo fa, lui, Leonardo, era a casa sua e parlavano da lì, parlavano. Tu mi senti, era Gamma e non mi attimo Gamma, non mi ricordo l'altro, è Omega mi fa, una cosa del genere. No, non lo conosco bene, diciamo lui mi ha dato una mano quando ho attaccato io, abbiamo sistemato un po' le antenne e il coso, l'amplificatore l'aveva già messo con le mani anche lui e io gli avevo dato a lui, avevo fatto uno scambio prima di chiudere, gli avevo dato, lui stava iniziando con l'antenna 2000, gli avevo regalato, diciamo, scambio, ho venduto a mano veramente, gli avevo regalato il lettore di 10 cassette della Davoli, quelli da professionali, mettevi 10 cassette e ti leggeva tutte le 10 cassette in autoreverso, eccetera, eccetera, gli avevo dato a lui, proprio lui all'inizio prima che ancora adesso non usano più perché avevano tutto digitale al computer, adesso sì che è facile trasmettere, prima invece che doveva avere le bobine o registratore a cassette con autoreverse e cose del genere per fare non stop, i giradischi, ma che anni vedete i giradischi, quindi attacchi OCD oppure vai direttamente in coso, in, col computer, scrivi la canzone e passi, ti fai tutto il programma. Sì, lo sai, c'è tutto cambiato. Prima era Sant'Avangia Tiera. Tu che è bellino di fare una... Io quando ho finito lì, io avevo il trasmettitore FM più chi di 48 CTE, che trasmettevamo io e Roberto, il figlio del patriciatore di Piazza Cassa, Roberto Mandizza. Allora pigliavo gli attaccavo il trasmettitore giù a coso a Usi nella discoteca che c'era la chiave. Poi il sabato andavo, abbiamo fatto un diploma per fare una discoteca che anche lui era un CB. Da lì trasmettevamo e ripetevo il segnale della Sassari io. Poi Gabriele si metteva nella frequenza vicina, allora non c'era il coso, c'era libertà di. Mi sono messo a stanco a coso, a Leonardo Zanza. Ah, tra poco si incazzava, è uscito con il radione in giro a cercare il segnale, mi ha preso un radione in braccio finché non è arrivato sotto casa di mia e di Gabriele. Lo so, c'era uno poi cosa, in corso di Trinità, lo stesso un ragazzo che poi alla fine l'abbiamo fatto spegnere, dai, lui, perché mai ha detto papà più a lui, è fisico, a me non è che me ne ha fatti la sabbia di tanto. Ha detto, mi questo, dobbiamo mandargli una lettera, abbiamo mandato una lettera e ti ha spento subito questo. Ma io ero dichiarato, io è che non ho abbandonato tutto, io avevo la frequenza censita in polizia, tutto quanto, avevo fatto tutto quanto. Poi ho mollato tutto stupido, perché poi mi avrei fatto anche qualche soldino, nel senso che adesso le frequenze te le comprano. Io c'avevo 99.5% della mia frequenza dichiarata. Comunque, vabbè, la frequenza potevi anche tenerla, nessuno ti diceva niente, bastava a affittare come ponte ripetitore e avessi fatto un sacco di soldi, ti avevo pagato l'affitto di tutto, è stato tranquillo e beato se sei stato. Comunque quello che stai dicendo tu di questa attività è Angelo Tanda. Ehi, a Tanda si chiamava, c'è ragione. Io purtroppo non ho più trovato la denuncia, io ce l'avevo la denuncia perché me l'hanno chiesta un amico, non facciamo nomi, che c'è una grossa stazione radio, mi ha detto dammela a me che te la faccio recuperare io qualche soldino e a me mi dà il 50%. Ho detto va, se riusciamo a trovare a trovarla, ho chiesto amici che ho giù in questura, gente del genere, dice dopo 10 anni le cestinano, ce le buttano via, cazzo. Se no, no, c'ho la cugina lo stesso lavora lì, glielo ho detto, mi ha detto no, purtroppo stavamo un po' di dubbio, perché se c'è, mi battava un pezzo di carta e ce l'avevo già bella che è pronta, dico la stazione sì, tu la vuoi, dammi questo. Io ho amici che si hanno fatto un bel di rinami. Bastava lasciare il tuo sentitore a casa tua con la frequenza e avete affittato il coso di ripetitore. A me me l'aveva chiesto coso Radio 105 quando c'avevo il PTT 428. È venuto a casa Pietro Fantomagico un responsabile di Radio 105 e mi ha chiesto se li potevo fare da ripetitore. Io l'ho chiesto a me, ho detto mamma, se fa una cosa di gente ho avuto fuori di casa. Ha detto mamma, guarda, ho detto l'ho perso in massata, ho detto non costa niente, a me mi pagano la luce, detto, mi pagano l'affitto, mi danno anche i soldi a me, no, non mi frega niente, ha detto. Se non mi ha versato i soldi a questo qua. Aveva messo a posto della baracchina, aveva messo di pulso, da lì mi sarei affittato la massata, mi sarei fatto di là, mi sarei fatto. Purtroppo per colpa di mamma ho dovuto lasciare prendere. Purtroppo, vabbè, io lavoro, piacevo grazie a Dio, oppure quello, se no la musica già cambiava. Io non riesco a capire a chi sta aspettando quella persona che hai nominato tu del centro storico, che c'è ancora la radioattiva, avendo sulla frequenza, io non ho capito che cosa ne abbia. Perché secondo me, non dico che sia in perdita, ma sta andando giusto. Vuol dire che gli piace tenerla, è appassionato quello, la può in banca mi sembra, se non ricordo male. Ora mi sembra la buono tutti e due, in pratica non gliene fotte nulla, quello che quel poco che ritirano ci dice andando giuste con la pubblicità. Sì, l'ho capito, però è incassare per dire 300-400 euro al mese, dice non li costa niente, però cacchio, tu lavoro tuo, nel senso ti devi impegnare, ci devi andare, organizzarti la pubblicità e tutto quanto. ma incassa, anche se incassa 1.000 euro al mese, che non vi credo che incassa 1.000 euro al mese, e non è meglio che ti diano 100.000 euro tutti in una busta. Salve, lui potrebbe anche, cioè, per me direttamente la frequenza, al limite affittare la cosa, lascia trasvestito da dove, si prende un sintonizzatore e si fa tutto il trasferimento dalla WHF in co- ma è tutto salto dal satellite, attacca il satellite, riceve dal satellite, non so quante stazioni radio ci sono, una circuiti nazionali che vogliono entrare qua a Sassari, tu non hai idea, io ho un amico che l'adatta, la frequenza, la radio DJ l'adatta, non la radio DJ, scusa, 101, sì, 101 è radio DJ, adesso sta fondendo con Radio Cap, l'adatta lui, la frequenza l'aveva data allora, l'adatta anche a poco, 27 milioni l'adatta. Figurati, ma se avevo avuto cosa da... Avrei fatto un coso qua su, solo che non lo puoi fare. Avrei pigliato una casa giù a Centro Studio, avrei fatto ripetitore legge, mi sarei ai... con l'affitto delle cose mi sarei fatto i soldi. Sì, già lo so, ma adesso a me non puoi attaccare una frequenza, se no ti arrestano i zoom. Ma uno che aveva già la frequenza, io ce l'avevo, censita e dichiarata, tutto quanto. E che ormai non va giù più nulla, se no con qualche documento a vedere se riuscivo, anche se adesso 99.6 ce n'è una di radio, c'è mi pare Radio 101, mi sembra che si sia messo, comunque ormai è fatto il danno, non c'è problema. C'era un amico mio che mi ha interpellato da poco, che lui aveva una radio a Corso, è un prete, che si è trasferito a Sassari, mi ha detto, no beh, mi deve dare una mano per riaprire la radio, perché lui sapeva che io ce l'avevo ancora frequenza, mi dispiace, purtroppo è saltato tutto, ho già tutto pronto, perché lui mi aveva dato un sacco di attrezzatura, lui c'era una bella stazione a Bonnano, c'era il ponte ripetitore sopra nel monte di Cheremolo, c'era una posizione allucinante, non sai quanto sparava, però con un 100 watt arrivava, copriva buona parte della provincia di Sassari e arrivava anche in certi punti anche a Sassari, nel pezzettino all'ingresso di Sassari, era una bella posizione. E poi ha chiuso, si è trasferito qua, mi ha detto, no beh, voglio ripartire con la radio. Ha detto, dammi una mano, ha detto, sì, cosa fa? Dice, ma non è la frequenza. E non ce l'ho più, se no gliel'avrei anche regalata a lui. Senti, a muove se ce l'hanno la radio. I preti li muove. Scusa, ma cosa hai detto? I preti li muove se ce l'hanno la radio. Di Mores? E come si chiama il nome? Ma è stato anche a Mores. Non me lo ricordo, io ho sua mamma che ho visto questi di cui pensate, dove, cosa c'è qua? In fretta c'è la radio, ma ti trova l'aria. Questo era di buon anno, no? Ma era anche in gamba, è in gamba anche, adesso è qua vicino a me, nella chiesa vicino a me. Però non può fare una radio su internet lui, non so se l'abbia già fatta, mi devo sentire, ci siamo sentiti l'anno scorso e mi ha fatto proprio delle domande. Ma lui mi ha dato, mi ha venduto un registratore a bobina, codificatori, cos'è, piastre, una marea di dischi, l'ho comprata lui, tutti i dischi che c'erano, la maggior parte li ho presi da lui, gli LP e i 45 giri, perché lui aveva svuotato tutto. Adesso per la radio è un casino. Gravi voli, un bel apparecchiature nuove, non ti basta. Se sei fortunato che vinci andate in vinci magari, per 200.000 euro riesci a fartela. Vabbè dai, adesso sono calati tantissimo i prezzi. Più che costano sono le antenne, ancora costano un pochettino, ma adesso con un computer ti muovi tutto un MP3, ti scarichi tutto quello che vuoi. È molto più semplice secondo me fare una stazione radio che rispetto a come la poteva essere ai tempi miei, che doveva avere bobine eccetera eccetera. Adesso ti attacchi un computer, un portatile, ti muovi una scheda audio di lusso e trasmetti tutto con computer, ti muovi 2000-3000 titoli e andi come ti debbiate. A voglia io adesso riesco a buscare qualcosa, lo piglio e ne chiedo il trasmettitore, c'ho la cosa, metodo di CD e per utilizzo CD con cosa, c'è anche le piatta addirittura. E dimmi una cosa, io quel decoder, il primo encoder stereo che avevo io, lo sai chi l'aveva fatto? Tu hai quello di Aldino, senza braccio, brazzito, che era collega tuo a Linapri. Già lo conosco. L'aveva fatto lui di lì, l'aveva piazzato lui di lì, ha fatto un lavoro spettacolare, perché ci avevate tutte le attrezzature, infatti, e poi c'era un altro di Senu, lo stesso che aveva una radio, però quello di Aldo era quello fatto meglio, come costruzione, Aldo era bravo, ed è ancora bravo, era quello di il kit di Nuova Elettronica. E Aldo pure che lo conosco, guarda che Aldo era a scuola con cosa, con con il fisio ha fatto l'inapio lo stesso. Ma tu non eri all'inapio per te, non eri insieme ad Aldo? Ah, Aldo era in terza, io in seconda. Insieme ad Aldo c'era Gianni Bravo 2. E cosa c'era Andrea? Lo conosce Andrea Falchi, lo stesso da un CB? Sì, già lo conosco. Andrea, quello che lavorava la scarpa. Quello che lavorava la scarpa. Poi chi c'era? Quello che lavorava dal Ghittu, lo stesso, Cristoforo, non ricordo. Dopo io. Come? Testa rossa lo chiamano, perché c'è i capelli rossi. Bruno, invece del Cabirubio, adesso non me lo ricordo. No, già lo conosco perché c'era il figlio, giocava a pallone. Adesso il cognome non te lo dico, però già c'è capito. Poi c'era Coso, come si chiama? Quello che lavora alla Telecom, come si chiama? Mi pare si chiama Michietti, può essere. E quel professore? No, non professore, di alunno. Non so perché non me lo ricordo. Mi ricordo... Allora, gli Alina Pera, Bambuono. C'era Gianni, Leonardo, no, il fisio non era la società, c'era il fisio, Gianni, eh? Io non devo andare la portata a cosa, mi facevo uscire di testa, lo facevo apposta, eravamo nella classe di una di fronte all'altra. Prendevo l'oscillatore, mettevo la frequenza su, che lui mi pare su 91, prendevo le volevo la portata, lui bello scendo fuori, appena la coppia la radio. No, quello che sto dicendo io, vabbè, quello che lavorava, per quello di quello che c'è, una cosa che c'è all'angolo di via Lomberto, che vende roba Electrolux, Giuseppe Kirchi, l'hai conosciuto? No, Luigi, te lo ricordi tu invece, Luigi che lavorava a cosa? La sua radio. Eia, quello lì, quello con gli occhiali, sai? Quello con gli occhiali. Quello quando c'era il periodo delle schede pirate e cose del genere, parliamo, pirata poi sono diventate, ma all'inizio non erano pirata, per vedere i canali, quelli quando davano le partite, parlo i canali svedesi, film porno, davano, all'inizio, e lui era uno di quelli che ce le aveva, cioè ce le aveva, ne sapeva fare, poi è uscita la legge, erano tutto fuori legge, hanno abbandonato tutto. Sì, quella è mentre qualcosa, Fusano, le schede, il vento, di Trim. Sì, no, ma quando era venuto il fusario era già tutto fuori legge. Io parlo all'inizio, che ti davano il decoder di due macchie, io ce l'avevo ancora il decoder di due macchie, col sistema svedese dove c'era TV1000, canale non so cosa, canale Plus Svezia, cosa del genere, ti davano il sabato sera, ti davano la partita, o la domenica pomeriggio. Però era tutto regolare per legge perché lo potevi fare. Poi ogni tanto questi canali svedesi cambiavano le codive e te le dovevi riabilitare. C'erano una specie di calcolatrice, tra l'attaccavi lì e rimettevi i codici, su internet erano ancora gli alburi, ti scaricavi il coso, i codici e lo riabilitavi. Ce l'avevo io, forse c'era ancora qualcuna di quelle schede, ma stiamo parlando 95-96, che ancora era fattibile, si trattava da parlare adesso è un po' più fatto, c'erano proprio gli schede in giro, se faceva qualcosa, io non sai quelle schede. Io e Giordano lo faceva, poi anche Giorgio, quando vedeva i ricevitori della ragazza, quelli dorati, li accostava, vedeva, gli dava anche la carta così. Io ce l'ho accostato infatti, Manata, Natolini, Ciappara, vabbè, ma all'epoca era diverso, poi è iniziato ad entrare Telepiù ha fatto il coso, i decoder terrestri, e da lì poi è cominciato a fare tutte le cose strane, poi da lì è diventato quello digitale, uscivano le schede secca, te lo ricordi, quando c'era Telepiù e l'altro, come si chiamava, Stream, te ne andavi su internet e ti scaricavi le cose, ma poi lì era successo un macello, ogni prima della partita cambiavano i codici, eccetera, eccetera. Ma un po' di gente, beh, di più schede pirata in Italia che schede attive. E io già lo so. Cosa avevo fatto più di una settimana, lo sapete, quella cazzata lì. Hanno inchiappettato la finanza, mi sembra che era un vescovo, a Fusaro, a Piu, l'avevo fatto chiudere, e a Giorgio. Da quella lì non ho più fatto nessuna scheda. Stasera a Piero, tutte schede pirata. Sì, ma loro vendevano il PIC per modificare, ti davano quel PIC che il processore che te lo mettevi tu e te lo installavi e ti leggeva le cose. Ma poi, quando è uscito l'NDS ormai, e pochissime persone riescono ad aprirlo. Lì è un casino, non è così facile, no? Non è così facile. Ma già ho trovato il sistema, ho detto falle, ci sono le falle, capito? Fatta ricevitore, ho trovato subito chi ce la vuole mezzo che chiedesse se fa la scheda pirata, capito? Quella lì la manda su internet e vede gente facendosela. Sono preoccupati, come arrivano a un bel po' di cose, di gente che ha pagato, alla fine poi escono scheda pirata, non li paga più nessuno. Insomma, in quel periodo lì, quando c'era la guerra Stream contro Telepiù, che c'era Canal Plus dietro, si diceva, poi bisogna verificarlo, che Stream pagava questi hacker per farsi, per entrare nelle chiavi di coso, o gli dava le chiavi di Telepiù per cercare di bruciare i clienti per creare problemi. Poi alla fine si è preso, ma ormai non ne vale più la candela, cioè magari te lo può fare un universitario di quelli di informatica, uno che sta studiando di lì a livello di coso, di come si chiama, per prova di forza, per vedere, ma non è più la candela, che ti piglia una scheda di media se ti guardi la partita, quanto spendi? 30 euro e ti guardi 6 partite, 6 per 5, no, altre 5 partite, dici, ma 30 euro cosa mi devo matanare? Un gambo, o rischio poi se mi trovano, non ti arrestano, ma ti mettono una multa di migliaia di euro, per cui non ne vale più la candela. Prima magari era più fattibile, ma adesso non ne ho più sentito il pirataggio, la pirateria di questi canali qua è quasi scomparsa. Ah beh, ecco, sì, quello già è vero. Neanche io l'ho più sentito. Ormai è quasi sparita la cosa. Non c'è più nessuno che faccia la papinata, non conviene più. Vai lì, paghi, 4, 10 euro e ti guardi per un mese di cose. Già lo so. Oh, Patone, io interrompo che vado a mandigare, dai. Semmai ci sentiamo dopo. Ok, di nuovo, ciao ciao, buon proseguo, se c'è qualcuno saluto tutti gli eventuali ascoltori. Ma dimmi, però, questo della DB, tu c'hai solo la scheda o c'è tutto l'apparato? Tutto l'apparecchio c'ho. C'ho il trasmettitore e il finale è tutto assieme. Poi c'è il pulsante che c'è scritto monostereo e c'è il fatto che metto inserito, addirittura. Capito? Ma è RAC, dico, c'è dentro il contenitore o c'è solo le schede? No, dentro il contenitore RAC. E di chi era questo che c'hai tu? Me l'ha regalato coso, ma no. Mario me l'ha regalato, questa cosa qua. Solo che quando l'ho attaccato c'erano problemi, no, di cosa, di PLL, capito? Ma DB a livello qualità prezzo probabilmente era numero uno, poi magari c'è roba di meglio, ma dovrei salire 10 volte il prezzo per avere di meglio, però a livello di questi così di uso normale la DB era numero uno, in Italia tutti compravano DB perché costavano poco ed erano ottimi come prodotti, andavano benissimo, poi se volevi di meglio dovevi andare su altri marchi, però da 1000, per dire, un DB, il pilota della DB lo pagavi 1000, 1,5 milioni, 1,8 milioni. Per avere di meglio dovevi spendere 10-12 milioni all'epoca e andare su altri generi di apparati, ma nessuno se li poteva permettere. Sì, se va la candela, ma in seguito al limite, ma se non riesco a sistemarlo, che il PLL non funziona, al limite mi ordino la scheda e lo faccio dopo di funzionare. Cioè c'è sempre queste libere, ho voglia, in FM, basta prendere una e ti ripeti per un po' di tempo. Fanno esperimenti. Sì, sì, sì, infatti anche io mi te l'ho detto, io ce l'ho conservato il mio, ma ci ho avuto sempre l'idea di provarlo, dico, con le nuove qualità CD, perché prima magari uscivi con il giradischi e il coso, adesso col CD c'è una fedeltà molto ma molto superiore, non hai bisogno di filtri né niente. Vabbè dai, io interrompo, ciao Antone, grazie della chiacchierata, adesso ci sentiamo nel prossimo, ciao ciao. Sì, ciao, ci sentiamo, va bene, buon tutto, buona cena.